giorno in cui la luna si confonde con la strada e va veloce. La violenza del mattino lascia il posto alla tristezza della sera. E San Lorenzo chiede ancora un'altra canzone d'amore. Ma scusa, devo andare via. Roma, Roma, dimmi chi sei. Roma, chiave nelle tasche, non la senti questa voce, questa maledetta voce che non vuole uscire. Ma dentro me soltanto, soltanto la voglia di un'altra canzone. Scusa, devo andare via. Roma, Roma, dimmi chi sei. Roma, dimmi, dimmi, dimmi che qua. Solita storia.